Ma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso e anche da parte degli ospiti, tra poco ve li presento, e un particolare saluto a chi mi segue sempre in trasmissione ogni giovedì, vi ricordo carta e penna da mezzogiorno alle 13 circa, 13:15 più o meno siamo lì, giornata bella, ma attenzione, non scopritevi troppo, non mettetevi il décolleté, perché tra qualche giorno, anzi a partire da domani, il meteo non promette nulla di buono sia per il centro nord che per il centro sud, isole comprese, diceva un mio amico che faceva un tipo di pubblicità. E allora, argomenti, insomma, finalmente gli amici del nord si sono resi conto che Roma non era così ladrona, che la Sicilia non aveva decurtato o depauperato nulla di più e nulla di meno di quello che gli amici del nord si sono intascati e hanno speso con il bancomat, un termine che si usa molto in questi giorni a proposito del figlio di Bossi, ma non entriamo nel merito, penserà la magistratura a fare ancora il suo corso, poi noi ci confronteremo dialetticamente, come sempre è stato nostro costume fare, con gli amici del nord Italia, così siamo tutti uguali adesso, ladri al nord, ladri a sud, nessuno più può ergersi a dire io sono il paladino delle regole istituzionali e quant'altro. Massimo rispetto per le persone, ci mancherebbe, non tutti i politici sono ladri, la maggior parte forse sì, ma non aspetta a me dirlo, e non tutti i magistrati sono seri, quindi voglio dire, non tutti i medici sono bravi, non tutti i giornalisti siamo straordinari, chiaramente non bisogna sparare nel mucchio, bisogna fare i dovuti distinguo, e noi partendo da questo presupposto, diciamo, ci auguriamo che finalmente, adesso che siamo stati messi tutti alla pari, che la politica possa riprendere il suo normale corso di riavvicinarsi alla gente, la gente alla politica, con quell'afflato che c'era un tempo, con dei punti di riferimento veri e propri e non allo sbando come siamo stati negli ultimi tempi. Per quanto attiene le tasse, ahimè, ancora continuano a salire, ci sono 35.000 imprese, micro imprese del nord-est che hanno chiuso i battenti, con 35 morti suicidi, cioè sono i titolari di queste imprese che non ce l'hanno fatta, visto che le banche non hanno erogato nessun fondo per aiutare le medesime ad andare avanti. Ci sono dei momenti veramente tragici che stiamo attraversando, non soltanto in Italia, ma è un discorso cosmopolita, cioè che riguarda tutto il mondo, ma noi italiani negli anni brutti, tristi, pensiamo alle Brigate Rosse, pensiamo alla guerra 40-45, sono stati capaci di rigenerarsi, di dare le prospettive per gli anni 60, di creare un boom, il boom degli anni 60 che ha portato l'Italia ai vertici del design, ai vertici delle marche più prestigiose nel mondo. E l'IKEA, questa grande industria, si è resa conto che il design italiano è ancora valido ed è in controtendenza rispetto a chi chiude in Italia per aprire, tipo la Stock 84, per aprire all'estero. L'IKEA vuole aprire in Italia, anche a Palermo. Che possa essere un buon viatico, punto interrogativo, ai postri l'ardua sentenza. Intanto, prima di fermarci per una brevissima pausa musicale, desideravo salutare e ringraziare come sempre gli sponsor, senza i quali non sarebbe possibile fare questa trasmissione, non abbiamo il canone, ve l'ho sempre detto. E allora, il Geranio cos'è? È un ristorante, pizzeria, piscina, ludoteca, campo di calcetto, pensate, a 20 metri dal mare. Allora, cosa dovete fare? Venerdì prendete bagagli e bagaglini, prendete la famiglia, arrivate ad Acque Dolci, perché è lì che si trova questo stupendo ristorante pizzeria con 16 stanze in questo momento in fase di ampliamento. Vi fermate questi 3 giorni, i vostri bambini possono giocare nella ludoteca, chi vuole farsi il bagno in piscina lo può fare, una cena stupenda con grigliate di pesce a 20 metri, pensate che profumo di mare che arriva sulla vostra tavola, e poi se volete la pizza fatta a legna, ve ne suggerisco una, che il Geranio. Cosa contiene? Dovete scoprirlo da voi. Allora, dove trovate il Geranio? Lo trovate ad Acque Dolci, pensate, vicino a Campo Sportivo, in via Contrada Buffone Marina, ad Acque Dolci. Andateci a nome di Filippo Glorioso, qualche pizza gratis, perché no, ve la potrò anche dare. Andiamo ancora avanti, siamo in tema di clima, sia invernale che estivo, si avvicina la primavera, anche se un po' uggiosa e piovosa, soprattutto il mese di aprile. Il clima ideale di Bruno Sergi, di cosa vi stiamo parlando? È un centro assistenza delle caldaie Bosch, centro assistenza e autorizzazione della LL Blanc, e poi sistema di depurazione delle acque gel, acque da bere. Per quanto attiene poi i riscaldamenti, se volete, o per la luce stessa, è esperta nei pannelli solari, acqua calda con circolazione forzata oppure naturale. Il sito è www.ilclimaideale.com, il telefono 0921 426767. Il clima ideale di Bruno Sergi lo trovate a Finale di Polina. Detto questo, io direi di passare un attimo la linea alla regia, se è d'accordo la regia, per un brevissimo brano musicale. Al rientro vi presento l'ospite che sarà con me per tutta la trasmissione, per tutta la durata della puntata, di sicuro interesse come personaggio, per la carica che ricopre, ma soprattutto per quello che sono i contenuti della nostra discussione. A tra poco. mezzo il bene che rimane. Mi tengo la tua rabbia se ti pare. La mia, ti giuro, l'ho lasciata andare. Se siamo stati parte di uno sbaglio, ma a volte anche qualcosa di un po' meglio. E allora rieccoci rigorosamente in onda, state ascoltando Carta e Penne, studio Filippo Gloriosa, la console sempre il mio amico Raul Bova, con un sorriso sbagliante, lo so, si è molto invecchiato negli ultimi tempi. Allora, torniamo ad essere seriosi, ospiti in trasmissione, una persona che ricopre una carica istituzionale di una certa rilevanza, di una certa importanza, ma anche di una grande responsabilità, e vi sto parlando del dottor Stefano Cirillo, eccolo qui, che è il presidente della Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù. Presidente, intanto grazie per averci dedicato buona parte del tempo che lei so che dedica alla sua istituzione, come giusto che sia tra l'altro, ma la motivazione di questo incontro è per capire meglio e più da vicino cos'è la Fondazione San Raffaele Giglio, chi è Stefano Cirillo come uomo e come manager di questa fondazione, e capire quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi, qualora ce ne fossero, come funziona la macchina amministrativa di un ospedale, quali sono le difficoltà che si incontrano. Lei ha 3 anni che ricopre la carica di presidente del San Raffaele come fondazione. Le chiedo un excursus, in questi 3 anni cosa abbiamo fatto, cosa lei ha posto in essere per ancora migliorare qualitativamente la fondazione stessa? Ma guardi, brevemente, per non annoiare ovviamente chi ci ascolta, siamo partiti 3 anni fa però in una struttura che era già stata avviata attraverso quella che viene chiamata una sperimentazione gestionale. Cosa prevedeva la sperimentazione gestionale? Come presupposti e come obiettivi era quello di formare quindi una struttura ospedaliera con un target di eccellenza per tutte le branche e soprattutto con un indirizzo di tipo oncologico. Quindi obiettivamente quando io sono arrivato la struttura 3 anni fa era una struttura ben avviata, aveva consolidato tutte le specialità, delle ottime posizioni nell'ambito della sanità siciliana, e si proiettava, come ha continuato a fare, quindi anche in un ambito nazionale, mi sento di poter dire. Ovviamente però bisogna scindere quello che era l'aspetto di questa sperimentazione gestionale come obiettivo di tipo sanitario e l'aspetto di puramente gestionale, perché la sperimentazione gestionale prevedeva che dei soci si confrontassero, e quindi hanno organizzato quella che poi è stata la fondazione, che come sapete giuridicamente è un organo di diritto privato, ma in realtà avendo dei soci pubblici come la Regione, come la ASP di Palermo e come il Comune di Cefalù all'interno, e il solo socio milanese come socio privato, chiaramente di fatto, e come poi il TAR attraverso altre sentenze sembra sottolineare, è comunque una fondazione di diritto privato, ma che gestisce un ospedale a tutti gli effetti che si può essere considerato pubblico. No, se vuole proseguire, sì, prego, non proseguire. La volevo interrompere. Ovviamente la sperimentazione gestionale aveva come fine e obiettivo principale quello di sviluppare, come abbiamo detto, gli aspetti sanitari, ma doveva, attraverso questa fusione pubblico-privato, dimostrare che quest'ibrido potesse anche dal punto di vista gestionale essere più competitivo, visto che appunto le risorse nella sanità e i debiti anche accumulati dalla Regione Sicilia in ambito sanitario erano talmente alti, si pensava che il socio privato potesse avvalorare, diciamo, anche l'aspetto economico finanziario. Questo, mi sento di dire, è un aspetto abbastanza difficile da discutere, anche abbastanza complesso, perché comunque quando siamo arrivati il Consiglio di Amministrazione si è insediato a fine di marzo del 2009 e abbiamo ereditato da subito un bilancio del 2008 che aveva 13 milioni di perdite, e quindi come potete immaginare una situazione patrimoniale deficitaria che ci metteva subito in difficoltà. Ciò non di meno, grazie al lavoro di tutti quelli che lavorano quotidianamente e grazie ai loro sacrifici, abbiamo chiuso il primo anno, quindi il 2009, con un bilancio addirittura in positivo di 150, se non ricordo male, 180 mila euro, un bilancio in positivo. Ma questa eredità di queste passività, che poi si sono confermate ancora più critiche rispetto al periodo 2003-2008, oggi diciamo condizionano in qualche modo la negoziazione col partner regionale e anche con quello che è oggi il nuovo partner milanese, perché come sapete dalle note vicende, Milano è sfumata dal punto di vista diciamo della proprietà San Raffaele per i noti debiti, ed è subentrato oggi un nuovo partner che è il gruppo San Donato, che fa capo al dottore Rotelli. Perché tutto questo? Perché chiaramente non si possono, dico io, shiftare i due temi, quello sanitario e quello amministrativo. Sono due temi che vanno insieme, perché è chiaro che rilanciare e proporre un ospedale come il nostro sul livello alto e comunque sul livello di eccellenza prevede sicuramente una parte amministrativa e una parte gestionale all'altezza per poter rinegoziare tutto quello che è ogni anno il budget destinato alla nostra struttura e per poter ovviamente proiettarsi anche su nuove discipline. In ultima, negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, ma anche prima, visto il depauperamento economico, la crisi economica che si è sviluppata a livello internazionale, ma parliamo della nostra Sicilia, c'è stato l'assessore russo della sanità, l'assessore della sanità russo della regione siciliana, che ha pensato bene, non so se ha torto o ragione, non spetta a me, insomma, voglio dire, dare giudizi nel merito, lascio a lei questo compito, di accorpare e chiudere alcuni nosocomi e accorpare alcuni reparti alcuni nosocomi ad altri nosocomi più di periferia, più di centro, non di periferia, cioè chiudere quelli di periferia tipo Pedraria, Mistretta, per fare alcuni nomi, e accorparli con Termini Imerese, Cefalù e quant'altro. Qual è la sua posizione in materia, dottor Cirillo? Guardi, ovviamente io strategicamente cerco di andare oltre quello che è il nostro compito istituzionale, perché il nostro contributo, come diceva il Presidente Lombardo un paio di settimane fa in visita da noi, dovrebbe essere quello anzi di trasferire, di contagiare gli altri ospedali siciliani, non solo per il livello di eccellenza che raggiungiamo in molte specialità, ma anche come propositi gestionali di forma diversa, nel senso che noi in questi tre anni abbiamo contribuito un pochettino a quella che è la riforma di Russo. Russo ha avuto un compito difficile, ha ereditato anche lì una sanità che, mi permetta di dire, era gestita con pressappochismo, no, ma diciamo dai massimi sistemi, quindi la colpa forse ce l'abbiamo tutti, ed è anche una colpa culturale. Era una sanità gestita in modo clientelare, una sanità che probabilmente ancora si trascina per certi aspetti in questo vizio culturale che abbiamo. Però diciamo, io ritengo che il primo passaggio, il passaggio fondamentale, per una parola che io non amo ripetere, ma in sanità veramente andrebbe un pochettino rispolverata, è quella della meritocrazia. Non possiamo immaginarci di promuovere, io dico sempre, primari, aiuti, addetti, diciamo, alla parte squisitamente sanitaria, che non abbiano dei meriti. Non possiamo proporre nessuno solo per la sua etichetta, per la sua appartenenza o per quello che ci porterà in termini di voti, di consenso o di qualsiasi cosa. Quindi se non si fa un salto culturale e si scavalca proprio di generazionalmente questa cultura che ci portiamo dietro in tanti campi, sicuramente la Sicilia anche dal punto di vista sanitario resterà un po' indietro. Russo ha avuto il merito sicuramente di affrontare sin dall'inizio con determinazione l'aspetto di risanamento economico, ovviamente operando dei tagli, il che non basta indubbiamente, perché io dico, l'ho detto anche a Russo diverse volte, che ritengo che c'è una fase in cui sicuramente i tagli, ed era quella iniziale, erano oggettivamente assolutamente necessari per poter pensare di non essere commissariati, di poter andare avanti, e questo ha un valore, e penso che solo la determinazione di Russo poteva portare a questi risultati. Ora siamo entrati sicuramente in una fase nuova, in una fase in cui bisogna proporsi cercando di valorizzare quello che c'è di buono, perché sicuramente ci sono tante buone strutture sanitarie in Sicilia, quindi bisogna, oltre ai tagli, rilanciare tutti gli aspetti positivi. Dunque, a parte la meritocrazia che deve essere insomma posta in essere da subito e non nelle lobby di potere che poi vanno a creare delle sacche insomma non troppo trasparenti, e poi si creano i disastri che sono successi in questi ultimi anni. Torniamo un attimo al San Raffaele di Cefalù, perché negli ultimi tempi, anzi da diverso tempo, era associato al San Raffaele di Milano. Il San Raffaele di Milano è un'eccellenza, che se ne dica, insomma, nel campo sanitario, in alcuni reparti, ma insomma è una struttura predominante almeno in Italia. Il nostro San Raffaele di Cefalù era come dire, in simbiosi, in società, chiamiamolo, per far capire la gente, stava insieme al San Raffaele di Milano. Ci sono stati reverberi, dottor Cirillo, sulla questione di Milano? Beh, questo per quello che mi riguarda direttamente, le devo dire francamente che sin dall'inizio la mia posizione è stata molto dura nei confronti del partner milanese, tant'è che all'inizio proprio della mia presenza, grazie alla collaborazione ovviamente del nuovo direttore generale che era subentrato al precedente, grazie alla collaborazione degli altri consiglieri del consiglio di amministrazione, abbiamo provveduto a tagliare intanto con tutte quelle provenienze che ritenevamo fossero state superate dal tempo. Le faccio un esempio: noi abbiamo mandato via nei primi sei mesi qualcosa come una quarantina di consulenti che facevano parte della precedente gestione, e io non voglio entrare nel merito di tutto perché sicuramente sarebbe anche pesante per chi ci ascolta. Faccio un esempio per tutti: avevamo un consulente che ha avuto poi il buon gusto anche di presentarmi la richiesta di rimborso di una fattura per le prestazioni che aveva dato durante i mesi che erano stati precedenti nel 2009 al nostro ingresso in fondazione. Questo consulente aveva preso negli anni, in 3 o 4 anni, quasi 1 milione di euro per redigere i famosi bilanci che ogni struttura come la nostra è obbligata a fare. Bene, non solo abbiamo fatto a meno di quel consulente, ma abbiamo, quindi valorizzando quelle che erano le nostre risorse interne, devo dire dei ragazzi assolutamente giovani e brillanti che nel frattempo avevano maturato le competenze, abbiamo fatto a meno di quel tipo di logiche. Oggi facciamo in house quello che appunto prima dovevamo destinare anche in termini di esposizione economica molto forte all'esterno, e questo, ripeto, non può non essere riconosciuto ai giovani che lavorano là dentro. Sono cresciuti, sono maturati dal punto di vista sanitario e dal punto di vista amministrativo, nel senso una struttura a quale sicuramente è stato trasferito il know-how, che oggi si muove in maniera autonoma e indipendente anche da Milano. Per carità, io sono in controtendenza, nel senso, quando c'era ancora, abbiamo litigato spesso con Don Verzè e ci siamo scontrati in maniera molto forte. Oggi lo difendo perché è troppo semplice attaccare Don Verzè che non c'è più. Oggi lo difendo perché dico che in ogni cosa ovviamente c'è sempre del buono e del cattivo. Sicuramente la parte finale che ha caratterizzato il San Raffaele di Milano non è edificante, non è positiva, però senza quel soggetto che sicuramente volava più alto in termini culturali, in termini di proiezione, oggi non esisterebbe probabilmente neanche il San Raffaele di Cefalù, quindi non possiamo togliergli un merito che comunque è anche suo. Poi ci sono gli aspetti gestionali che vanno discussi, non è nella sede, probabilmente non abbiamo neanche la competenza per andare oltre, nel senso che Milano di riflesso sicuramente ha penalizzato la nostra struttura nell'ultimo anno. Questa associazione con Milano, che io dico sempre è 1.500 milioni di euro distante da noi per i debiti, che è 1.500 chilometri di strada distante da noi, questa associazione troppo forte non ci ha giovato ovviamente, e ha penalizzato anche nell'immaginario delle persone. C'è stata un'associazione, il brand, il nome San Raffaele tira molto, non possiamo, nel momento in cui è stato comunque ha subito sicuramente delle penalizzazioni, di sfarcene, e lo continuiamo e lo continueremo a mantenere, ma con dei distinguo. La nostra è una struttura autonoma e indipendente dal punto di vista gestionale, dal punto di vista sanitario, conserva con Milano, e questo c'è da dirlo, sicuramente tutte quelle che sono le sperimentazioni tipo scientifico e tutto quello che è legato alla ricerca, una partnership che è obiettivamente, anche per i meriti altissimi che continuano e per i contenuti elevati che continua ad avere Milano, non abbiamo nessuna intenzione di recidere. Presidente, io la faccio riposare un attimo perché do la linea alla regia per i consigli per gli acquisti, come diceva un grande giornalista, così insomma a fine settimana la gente può andare a acquistare con più tranquillità avendo dei punti di riferimento. E allora rieccoci qui, brevissima pausa per i consigli per gli acquisti. Qualcuno mi suggeriva, ma se non c'hanno i soldi per acquistare, beh pazienza ragazzi, e vedevo lì, io non vi posso dare consigli perché poi vengo pure arrestato per incitazione a delinquere, quindi voglio dire non mi permetto. Risparmiate, insomma, vedete di non fumare, stringiamo la cinghia, che volete che vi dica. Allora, ricordo che si possono mettere in ascolto in questo momento, che state ascoltando Carta e Penna, programma che va in onda ogni giovedì dalle mezzogiorno alle 13:15 circa. e poi in replica domenica dalle 9.30 in poi. Potete seguirci su Facebook oppure potete fare le vostre richieste sui nostri numeri telefonici oppure richiedere una canzone sul nostro sito al www.crmpiradio.it. Detto questo, allora vi ripresento l'ospite, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento non sa di cosa stiamo parlando di sanità, stiamo parlando di buona sanità, ma anche di cattiva sanità, di gestione, di come si gestisce per certi aspetti dal punto di vista amministrativo una realtà quale quella di San Raffaele Giglio di Cefalù, e quindi capire meglio gli ingranaggi, come si muovono. Abbiamo parlato di questo sincronismo tra San Raffaele di Cefalù e quello di Milano, con una diversificazione, perché poi è successo quello che è successo. Quindi il dottor Cirillo, che è qui in studio con noi, che è il presidente della Fondazione San Raffaele Giglio, ha testé raccontato come si sono mossi in questo senso per evitare poi che ci fossero delle disincresie, e quindi si è tornati sui binari della legalità e soprattutto sui binari di una quasi perfetta gestione della cosa pubblica, in questo caso del San Raffaele di Cefalù. Mi scusi, noi non eravamo mai usciti da quei binari. Ah, era il San Raffaele di Milano che era uscito. No, ma voi, voglio dire, siete rimasti lì, ma non vi siete lasciati nei trascinare. Nei binari. Questa è una sana amministrazione, quindi voglio dire. Allora, torniamo adesso invece a parlare del San Raffaele di Cefalù, dottor Cirillo. Si parla tanto di liste di attese lunghissime. Qual è la ragione, a parte che insomma è un fiore all'occhiello il San Raffaele, che molta gente viene da Caltanissetta, da Agrigento, alle altre province, e convergono tutti su questa struttura, ma è solo questa la motivazione per la quale non si riesce a smaltire le liste di attesa? Beh, vede, intanto l'ospedale sicuramente anche da questo punto di vista è una struttura molto complessa ovviamente poi viene penalizzata paradossalmente dall'eccesso di richiesta. Cosa significa questo? Che ovviamente se abbiamo 30.000 persone in lista d'attesa, non è tanto perché non riusciamo a smaltire quello che abbiamo dentro, è che non siamo calibrati su prestazioni così numerose. Perché lo dico? Perché oggettivamente non si può far convergere soltanto su una struttura come la nostra un numero di richieste così elevate. Cosa significa? Primo, anche i medici generici dovrebbero, diciamo, screenare un attimino questo tipo di pazienti e eventualmente destinarle in strutture che non sono sovraccaricate come la nostra. Lo dico perché alla fine è un pochettino veramente il cane che si morde la coda. Un ospedale come il nostro, che fa circa 5.300 interventi operatori l'anno, che ha una saturazione dei posti letto molto vicino al 100%, non ha quindi quel turnover per aumentare l'offerta, non ha quel turnover non solo quindi sul il paziente ospedalizzato, ma anche sullo paziente diagnostica, cioè non può aumentare troppo l'offerta, perché sennò andrebbe sicuramente a penalizzare la qualità dell'offerta. Mi spiego meglio un attimino. Se io ho una paziente a cui sto facendo un'ecografia e so che devo raddoppiare il numero delle prestazioni per coprire maggiormente la lista d'attesa, sarò costretto, invece di spendere mezz'ora del mio tempo su quella paziente, a spendere soltanto un quarto d'ora. Questo ovviamente penalizza la qualità della prestazione. Noi da questo punto di vista non possiamo negoziare niente, non possiamo sulla qualità, non vogliamo negoziare niente, non siamo disponibili a scendere sotto il livello di qualità che abbiamo raggiunto e che i nostri operatori mantengono, e quindi questo non lo possiamo fare favorendo lo smaltimento di liste d'attesa, che comunque potrebbero essere smistate tranquillamente anche in altre situazioni distrettuali. Beh, è stato abbastanza esaustivo nella risposta. È chiaro che non si può giocare con la salute delle persone dando un forfettario, arrivederci, è stato un piacere, torni più tardi. Poi magari succedono quelle situazioni poco simpatiche, no? Che sono spesso denunciate da parte dell'utente, come sono stato al pronto soccorso 5 minuti fa, mi hanno fatto tutte le 5 minuti, sono stato fuori, muore dopo 30 secondi. Lei capisce che, insomma, voglio dire, sono d'accordo con lei con quello. No, guardi, lei graziosamente in generale cita un elemento che è un elemento molto delicato, è l'area di emergenza del pronto soccorso. Tra l'altro, appunto, nel nostro pronto soccorso, che ritengo sia uno dei fiori all'occhiello, e la struttura grazie al dottore Squadito e a tutti quelli che ci lavorano, che riescono veramente a mantenere alto il livello delle prestazioni. È un pronto soccorso dove entrano ogni anno 22.000 persone, forse siamo arrivati quasi a 23.000, quindi siamo a un livello di prestazioni, quindi in un'area che è l'area di emergenza, sotto uno stress veramente importante per gli operatori, riuscire a mantenere alto il livello e l'attenzione è sicuramente un fatto di merito. Aggiungo, torno un attimo sul tema di prima, pensate un attimino che sull'ambulatoriale, quindi sulla diagnostica, abbiamo raggiunto il numero annuo di oltre 230.000 prestazioni ambulatoriali. Non è cosa, stiamo da parlando poco. Un quarto di milione di persone che passano da noi, e quindi è chiaro che la lista d'attesa per smaltirla diventa un pochettino problematica. A me ha fatto piacere quello, mi perdoni se non interrompo, quello che ha detto prima lei, cioè non possiamo andare a discapito, no, di una perfetta diagnosi e quindi poi cura successiva col fatto di avere premura perché abbiamo tutta questa gente da smaltire, cioè no, con la sanità non si può scherzare. No, il livello non si può, ma mi creda, ci farebbe anche comodo poter smaltire molto più della lista d'attesa, e anche dal punto di vista amministrativo e economico ci farebbe anche comodo, ma non riteniamo che sia la strada da seguire. Senta, facciamo un passo indietro, penso che i radioascoltatori siano d'accordo con lei, magari impieghiamo qualche mese in più a discapito del nostro cervello, perché poi va in tilt, ci arrabbiamo, ma come, ma perché, ma è normale, però è positivo perché quando siamo in diagnosi da parte degli addetti ai lavori, quindi degli specialisti, siamo sicuri di essere in buone mani, e che se usciamo dal pronto soccorso, se usciamo dalla cardiologia o dalla medicina, usciamo perfettamente guariti e senza ulteriori strascici. Fatta questa disamina su quello che è il pronto soccorso, e la ringrazio anche per aver dato questo input in più alla gente che ci ascolta, per far capire l'amore di lavoro che si svolge in una fase di prima emergenza, che appunto è il pronto soccorso. E vorrei tornare un attimo invece sulla fondazione di cui lei è presidente. Lei è stato in Burundi, abbiamo avuto ospiti in studio il dottor Lombardo, che è il suo portavoce, ed è il, non soltanto il suo portavoce, ma anche il direttore responsabile della comunicazione del San Raffaele, insieme a Vincenzo Agozzino, che salutiamo e ringraziamo ci per essere qui. Allora, siete stati in Burundi, dove c'era già una struttura fatiscente di un investimento fatto in lo tempo dalla parte della regione siciliana. Poi invece è arrivato il dottor Cirillo con la Fondazione San Raffaele. Che succede, dottor Cirillo? Guardi, mi fa piacere che prenda questo argomento, anche se ovviamente lo prendo spesso e quindi probabilmente a molti è noto anche. È semplice, nel dicembre del 2009, sì, se non ricordo male, al margine del vertice della FAO a Roma, incontrai il presidente del Burundi, persona, devo dire, anche molto illuminata, considerando che molto spesso nei paesi africani in via di sviluppo o molto poveri come il Burundi è difficile incontrare persone di alto spessore livello, e lì invece il presidente del Burundi mi sembrò veramente una persona avanti e capace di sdoganare il Burundi dalla classifica, che lo mette appunto tra i 10 paesi più poveri al mondo, quindi non si capisce là chi è il più povero di questi 10. E poi di una guerra fratricida, di una guerra che veniva pesante, sì, alla fine alla fine degli anni 90, e mi chiese appunto di andare ospite suo in Burundi a verificare qual era lo stato della sanità, diciamo, ammesso che si possa parlare di sanità in quel paese, di quella che era la situazione sanitaria locale. Lo abbiamo fatto con piacere, devo dire la verità, anche perché poi abbiamo avuto un riscontro di un operatore che poi è padre Garao, che spesso andava in Burundi e ci aveva detto qual era la situazione e come potevamo contribuire. Visitando il paese abbiamo scoperto, oltre a scoprire sicuramente le situazioni anche molto molto tristi, ecco, stiamo mandando anche le immagini sul io faccio sempre questo bimbo è dolcissimo, ecco qui vediamo lei con alcuni quello bambini. Quello che scoprimmo è sicuramente noto, molto spesso ne sentiamo parlare, però diciamo ci ha sconvolti. Abbiamo visitato dei posti dove esistevano degli stanzoni con decine e decine di letti sui quali stavano due, tre bambini tra o appena nati o 3, 4, 5 anni, ed erano tutti bambini in attesa di morire per che cosa? Per grandi malattie? No, per fame. Una situazione veramente agghiacciante, perché la mortalità infantile è elevatissima, è veramente purtroppo i numeri non riescono a dargli ragione. Per un pugno di riso le mamme non piangono più, perché sanno che i loro bimbi sono destinati a morire. Ma al di là di questa situazione molto triste che abbiamo avuto purtroppo il dispiacere di incontrare, scoprimmo che esisteva, e quindi su quello, quell'immagine era, faceva parte delle cucine di un ospedale. Abbiamo scoperto che esisteva questo ospedale che era stato finanziato. Ecco, questa è l'immagine c'è anche il logo della Regione Siciliana. Sì, perché abbiamo scoperto che c'era un ospedale costruito con i soldi di Regione Sicilia e lasciato come opera incompiuta per diversi anni. Era un ospedale assolutamente vuoto all'interno, grezzo all'interno, non c'erano impianti, non c'erano arredi, non c'era, diciamo, abbiamo ritenuto che la fondazione si poteva impegnare per un'opera umanitaria di questo tipo. Abbiamo fatto, diciamo, anche in consiglio di amministrazione preso atto della ci poteva essere la disponibilità, e questa c'è stata, a contribuire per lo startup di questo ospedale. I nostri operatori si sono resi disponibili e sono andati anche da volontari in Burundi. Il Presidente della Regione ha offerto una somma che era destinata alla cooperazione internazionale, quindi non poteva essere utilizzata per nient'altro, e abbiamo completato l'ospedale. Devo dire, anche altri ospedali siciliani ci hanno regalato del materiale in disuso, però assolutamente valido per l'utilizzo, e abbiamo completato completamente la struttura. I nostri tecnici sono tornati da poche settimane, ma c'erano andate in diverse missioni, abbiamo mandato diversi container, l'abbiamo ultimata e operativa alla fine di maggio. Mi pare dal 18 maggio arrivano i nostri operatori, compresi i sanitari, perché comincia l'attività sanitaria. Il Ministero della Salute del Burundi ci ha dato tutte le autorizzazioni per rispondere a chi ha più bisogno. Considerate che è un ospedale che è localizzato al confine tra il Burundi e la Tanzania, è uno dei posti veramente più poveri del mondo, dove si muore nella capanna perché si partorisce, la donna perde un pochettino più di sangue e non c'è neanche, appunto, diciamo, quel supporto per la prima emergenza che salverebbe tantissime vite. Io ritengo che daremo un contributo notevole, potremo rispondere a quella che è un'esigenza assolutamente che non si può disattendere. Sono convinto, e i nostri l'hanno preso sicuramente con molto entusiasmo e sono tutti motivati, sono resi conto che con il nostro piccolo contributo riusciamo a fare tantissimo. La vedo quasi commossa nel vedere le immagini dove lei si rivede, perché è stato sul posto insieme ai tecnici, insieme ai medici. Ma guardi, sono molto partecipata come sofferenza. Sicuramente la sofferenza è anche dei nostri operatori, perché all'inizio sembrava che fosse ora veramente la mia fantasia o la mia immaginazione che ci doveva proiettare verso una storia troppo distante, e quindi è stato difficile all'inizio probabilmente far capire culturalmente che bisogna andare oltre quello che è la nostra struttura. Gli operatori hanno veramente messo in quello che mi commuove, aver scoperto che alla fine ci sono tanti dei nostri che si sono appassionati, si sono immedesimati e veramente si vogliono dedicare con questa proiezione sul Burundi, che sicuramente darà loro tante soddisfazioni, sicuramente in termini emozionali. La fermo un altro secondo, così prego. Lei, se vuole, può ancora una volta bersi un po' di whisky. No, perché poi ci becchiamo. Casomai col senno del poi post bellum, dicevano i latini. Allora, io invece desideravo parlarvi di un'azienda che è veramente grande nella struttura, grande per quello che riesce a fare, ed è la Medielettera di Badalamenti Angelo, in via Ugo La Malfa 61 a Casteldaccio. Di cosa vi sto parlando? Intanto scrivetevi questo numero, che è un numero verde, quindi non pagate assolutamente nulla: 800 111 341. Allora, perché vi dico questo? Perché la Medielettera è un'azienda leader nel settore dei fotovoltaici. Di cosa stiamo parlando? Dei pannelli solari. Chiamando questo numero arrivano a casa vostra dei tecnici, vi fanno un preventivo, e una volta che ponete in essere la struttura vera e propria dei pannelli solari, avete due possibilità. La prima è di tagliare le bollette della luce, che oggi sono gravosissime, perché sapete che l'energia elettrica viene soprattutto dal petrolio, e quindi il caro petrolio comporta anche una cara bolletta. E tagliate quindi la bolletta, ma oltretutto, dopo 20 anni col sistema Sun Power, l'azienda vi garantisce un controllo a distanza e di essere rimpinguati economicamente, perché l'energia in più che producete l'Enel ve la rimborsa, vi ripaga quindi quello che producete. Castelbuono, 2M Porte che arredano importante, lo showroom in via Cavour 74, la produzione incontrata San Calogero, vicino una porta per tutte, la porta in rovere massiccio a 600 euro più incluso il montaggio, pensate. Le porte fuori misura, cosa significa? Che se avete una casa, una villetta che ha le misure fuori dal comune, perché avete avuto un portone enorme, una porta immensa, bene, se andate lì vi fanno il progettino, ma una cosa importante è chiamare prima per prenotare la vostra visita, sia per quanto attiene lo showroom che per quanto attiene l'azienda vera e propria. Sono talmente bravi che sono beratissimi di lavoro. Quindi ricordate, 2M Porte che arredano, esposizione in via Cavour 74, produzione incontrata San Calogero a Castelbuono. Vi do i numeri 333 136 8016, oppure 338 85 15 448. Per le maniglie poi c'è una vastissima gamma, ma se vostra moglie o la vostra fidanzata preferisce non acquistare dal punto di vista industriale i mobili per arredare la vostra casa, fatelo, vi fate fare un progettino per la vostra camera da letto, la vostra cucina, il vostro soggiorno. Beh, 2M è una firma, è una garanzia. Buon matrimonio. Prima di chiudere, sì, ne avevo preso già atto. Un attimo ancora, volevo parlarvi ancora di un ultimo sponsor per questa tranche, che è Latte Bergi, un'azienda in fase di espansione, fa un latte stupendo perché il foraggio insomma è delle madonie, quindi incontaminato, e avete la possibilità di vedere la fase della mungitura, della pastorizzazione, della posa in opera dentro le bottiglie del latte stesso. Acquistatelo perché portate sulle vostre tavole veramente un pezzo delle madonie, un pezzo di sapore antico. Poi sempre la stessa azienda Bergi, che è sulla strada provinciale che porta per Reggio Acisicolo, vi produce gli yogurt che sono veramente sensazionali, alla frutta bianca, alla banana, a frutti di bosco o a anche alla fragola. Ricordate questo nome, Latte Bergi, è un'azienda che sta crescendo molto, ma soprattutto nella qualità. E a tutti quanti voi buon acquisto e naturalmente buon pranzo. Dicevo, bisogna passare un attimo la linea alla regia, ci sentiamo tra pochissimi minuti, sono le 12:45 in questo momento, siamo rigorosamente in diretta su carta e penna, linea alla regia. Elezioni comunali di Cefalù. Messaggio elettorale a pagamento commissionato da Edoardo Croci, candidato sindaco di Cefalù. Sabato 14 aprile alle ore 19 a Cefalù in Piazza Duomo, la cittadinanza è invitata al comizio di Edoardo Croci, candidato sindaco di Cefalù con le liste Popolo della Libertà, Grande Sud, Urbe Città Nuova e Leali per Cefalù, per l'avvio della campagna elettorale e la presentazione del programma. Vi aspettiamo in Piazza Duomo sabato alle ore 19. La cittadinanza è invitata al comizio di Edoardo Croci. Messaggio elettorale a pagamento commissionato da Edoardo Croci, candidato. E allora sono esattamente 50, le 13:50, siamo sempre in buona compagnia con il presidente del San Raffaele Giglio, il dottor Cirillo. Abbiamo fatto una disamina di tutto quello che concerne, insomma, nel più o nel meno, avremmo ancora molte cose da dire. Molto velocemente abbiamo parlato della struttura, delle difficoltà che ci sono state nella gestione, ma soprattutto far capire alla gente la motivazione per la quale ci sono liste di attese lunghe. Se si vuole una buona sanità, bisogna avere un po' di pazienza, perché se no ci sbrighiamo in 448, poi i problemi verranno a posteriori, e invece è importante fare le cose fatte in un certo modo, fatte bene, come fin oggi almeno credo il San Raffaele ha fatto. Una domanda prima di parlare di quello che i giornali negli ultimi giorni hanno denunciato, cioè hanno parlato, e a me preme molto farle questa domanda, fremo nel fargliela. Ci rilasciamo al discorso degli accorpamenti, ci rilasciamo al discorso dei tagli, no, da parte dell'assessore Russo, alcuni sono rientrati, altri sono in stand by. Non si sa come finirà, insomma, ma si pensa che si possa porre rimedio a qualche situazione. Negli ultimi tempi il sindaco di questa cittadina, il dottor Guercio, che se vuole controbattere, per carità di Dio, i nostri microfoni sono aperti, anche il numero di telefono della nostra segreteria sono a sua disposizione, qualora volesse disquisire in senso in contraddittorio con lei può farlo tranquillamente, ci mancherebbe altro. Ma sui giornali è uscito fuori una diatriba tra il dottor Guercio, che se l'è presa un po' con lei e poi con il San Raffaele, perché paventava, anzi denunciava, il fatto che si era chiusa o si stava chiudendo il reparto di neonatalità al San Raffaele Giglio di Cefalù. Così poi non è, in effetti. Cos'è successo, dottor Cirillo? Ma guardi, tocca un argomento effettivamente che forse avrei preferito non discutere, però assolutamente sì, forse è meglio spingersi su quella che è poi la verità. Le devo dire molto francamente, sabato, il giorno prima di Pasqua, in serata, anzi in nottata, le confesso, mi è arrivato un messaggio, mi diceva: controlla subito un sito locale qua dove c'è un annuncio grave. E facendo il sito di questa pagina web locale, e leggo che il sindaco annunciava che era stato chiuso il punto nascita dell'ospedale di Cefalù, che non erano stati rinnovati i contratti ai pediatri e che quindi si sarebbe rivolto alla Procura della Repubblica perché si configurava l'interruzione di pubblico servizio. Le confesso che non ho dormito tutta la notte, e alle 5 mi sono messo in macchina perché volevo verificare di persona cosa stesse succedendo, perché mi sembrava, le dico franca, non credevo che si potesse arrivare a tanto, pensavo che fosse successo qualche cosa, non ritenevo di dover telefonare e chiedere agli operatori, che volevo verificare di persona. E quindi all'alba di Pasqua sono arrivato in ospedale e ho visto gli operatori assolutamente allarmati, preoccupati: abbiamo chiuso, ma come abbiamo chiuso e non lo sapevamo? Ma scusate, se siete qua, avete operato stanotte? Sì, è nato un bambino, ci sono le signore ricoverate? Sì, tutto a posto, ci sono i medici? Sì, ci sono le ostetriche, ci sono i ginecologi, ci sono i pediatri, qual è il problema? Non si capiva quale fosse il problema. Per onestà intellettuale devo dire che qualche giorno prima la situazione dei turni dei pediatri si era aggravata, perché uno di questi operatori, che sono in tre al momento, anzi sono diventati quattro proprio mi pare ieri, il direttore ha fatto un contratto a un nuovo pediatra, uno di questi tre pediatri si era ammalato, e quindi facendo saltare quella turnazione che consentiva tra Pasqua e Pasquetta anche agli altri riposarsi, quindi gravava veramente pesantemente sugli operatori, sicuramente un momento di stress, ma era consolidato il fatto che anche con loro estremo sacrificio il servizio sarebbe stato aperto come era e che sarebbe continuato a funzionare. Quindi c'è stata una lieve defaillance, se vogliamo, ma dovuta no, non c'è stata una lieve defaillance, perché il servizio è stato assolutamente garantito e continua a essere garantito con la solita continuità per tutti quelli che sono gli operatori. E quindi la sera di Pasqua il candidato a sindaco, oggi mi pare il dottore Guercio, rinnovava le minacce segnalando che se il punto nascita non fosse stato riaperto entro il giovedì, lui insieme ai sindaci, che tirava in ballo, io devo dire molti loro sentiti assolutamente preoccupati di questa uscita assolutamente impropria del dottore Guercio, quindi segnalando questa situazione assolutamente falsa, allarmava intanto gli operatori, poi diffondeva un panico tra tutte quelle che sono le mamme in attesa, che venivano disorientate, non sapevano più se eravamo chiusi, se durante la notte probabilmente si dovevano spostare in qualche altro posto, quindi veramente io dico un limite che non andava superato. Io le dico francamente, proprio perché la sera di domenica insisteva con questi annunci assolutamente mistificatori della realtà, io il lunedì di Pasquetta ho sentito il commissariato di polizia di Cefalù, sono stato costretto a chiedere un intervento della pubblica sicurezza per verificare appunto quello che stava succedendo, che noi eravamo assolutamente funzionali e funzionanti, che tutto procedeva regolarmente, e sembra che forse si può configurare anche, diciamo, un procurato allarme. Devo dire la verità, siccome io non faccio il legale e non mi piace comunque in questo momento, che sicuramente è un momento complesso, alzare il livello e i toni di scontro con chi che sia, tantomeno l'avrei mai immaginato di doverlo fare col dottore Guercio, che ritengo umanamente una persona sempre abbastanza equilibrata, questa volta però sicuramente ha superato quel limite invalicabile che è il rispetto degli operatori, il rispetto di quelli che si sacrificano ogni giorno, ogni notte, il rispetto di quelle persone che sono in attesa e quindi hanno sicuramente un livello di ansia aumentato e si aspettano delle risposte sempre di serenità e di tranquillità. Provo a immaginare una mamma che è in attesa, o il papà che deve portare la moglie con delle contrazioni in un ospedale e non sa se è aperto o se è chiuso. Ma insomma, di che cosa stiamo parlando? Le dico la verità, glielo dico francamente, ieri ho dato incarico a un legale per tutelare la fondazione nelle sedi giudiziarie appropriate, non ritengo di poter evitare questo passaggio molto doloroso per me, ripeto, anche umanamente ma anche professionalmente. Il mio incarico è quello di rappresentante legale della fondazione. Queste annunciazioni, assolutamente questa mastificazione della verità, hanno danneggiato la mia immagine, l'immagine della struttura, hanno messo a disagio tutti quegli operatori che si sacrificano ogni giorno, e io, a tutela soprattutto della fondazione e di questi operatori, quindi ieri ho dato questo incarico al legale. Ora, indipendentemente dal discorso dell'iter, insomma, burocratico, che avrà il suo seguito, presumo, ma lei non si è posto un quesito: ma perché proprio Guercio mi fa tutto questo? Da cosa parte, da cosa scaturisce tutto ciò? È una cosa personale, è una questione... Non si capisce. Lei non ha avuto ancora l'opportunità di incontrarsi con Guercio personalmente? No, le dico francamente, probabilmente ho sbagliato, perché lo dovevo ammonire telefonicamente all'inizio per cercare di farlo ragionare, perché insomma capisco che c'è una campagna elettorale, ma veramente c'è un limite invalicabile che la politica non può e non deve superare: lo scontro personale, la necessità di fare sicuramente propaganda, non può passare sulla pelle delle persone, non può passare sul sacrificio degli operatori. Questo è per me imperdonabile, una caduta di stile che non posso non segnalare, perché ripeto, personalmente avrei potuto anche chiudere un occhio, glielo dico francamente, perché sono abituato dagli 3 anni a questa parte, diciamo che ogni giorno ho subito un attacco, molto spesso, mi permetto di dire, anche frutto di fandonie e di mistificazioni. Però dico, se passano sulla mia pelle, sono abbastanza le spalle abbastanza grosse, però non posso tollerare, non, certo, anche per il ruolo, che si attacchi la fondazione, che si attacchino gli operatori, che si metta in discussione il loro lavoro e soprattutto che si metta a rischio diciamo la sicurezza di chi che sia. Bene, penso di aver fatto chiarezza, insomma, su quello che era. No, questo però momento. Volevo fare un altro passaggio. Sì, volevo aggiungere qualche altra cosa, perché chi ci ascolta può essere confuso. Sul punto nascite, e quindi usciamo dalla parentesi Guercio, che è anche imbarazzante, devo dire. Sul punto nascite c'è un passaggio che dura ormai da diversi mesi, nel senso che, come sapete, c'era stato un decreto dell'assessore alla sanità sì, con un'indicazione della commissione che era intervenuta per valutare tutti i punti nascita sulla Sicilia, dove si diceva che diversi punti nascita della regione Sicilia sarebbero stati chiusi. Tra questi veniva inserito il San Raffaele di Cefalù. Io sin dall'inizio ho detto, oggi grazie alla sentenza del TAR posso evitare di arrivare a questi estremismi, avevo detto che a costo di essere veramente il pirata della sanità, il punto nascita l'avrei tenuto aperto. Cosa significava questa battuta? Significava che, quindi, a costo anche che la fondazione, uscendo dalla convenzione per l'ostetricia, avrebbe, sostenendo quindi economicamente l'operazione, avrebbe mantenuto il punto nascita. Perché lo dissi e perché lo continuo a dire? Primo, permettetemi di dire, perché nella mia esperienza professionale da ginecologo ho visitato e ho lavorato in tanti ospedali nel mondo, dal Sud America al Kuwait, all'Africa, quindi a Londra, quindi mi sento di poter dire che il punto nascita di Cefalù, e questo per tranquillità di tutte quelle donne, di quei papà che portano le loro mogli e tutti quei bambini che poi nascono da noi, veramente mi sento di poter dire che il punto nascita di Cefalù è uno tra i migliori che io abbia mai visitato nel mondo, perché sono operatori molto preparati, perché copriamo tutto quello che è il livello funzionale di una struttura materno-infantile, offrendo anche dei servizi che vanno oltre. Penso a tutta la diagnostica prenatale di secondo livello che riusciamo a fare, penso poi a tutto quello che è l'ecocardiografia fetale, tutta una serie di altri servizi che è difficile riscontrare in altri posti. Successivamente, quindi, a questo decreto assessoriale, il TAR si è pronunciato giusto 2 settimane fa, entrando nel merito quindi della qualità del servizio che riusciamo a offrire, e mettendoci quindi anche su un piano di paragone con la struttura di Termini Imerese, che invece veniva tenuta fuori dalla chiusura, dicendo che il livello della struttura di Cefalù era superiore a quello di Termini Imerese, che era ingiustificato questo decreto che voleva chiudere il punto nascita di Cefalù, rimandando quindi al giugno 2013 i passaggi successivi. Devo dirle francamente, ho sentito diverse volte membri della Commissione Sanità che hanno avvalorato la nostra tesi, e quindi mi sento di dire che non solo non resta chiuso dal punto di vista, e non è mai stato chiuso dal punto di vista organizzativo, ma non lo sarà neanche da un punto di vista burocratico. Sono convinto che la politica, che ha delle responsabilità che sono sempre a tutela di ciò che c'è di buono. Non possiamo massacrare chi funziona, non possiamo penalizzare le strutture come la nostra, perché sennò rischiamo. In Italia c'è una tendenza, speriamo che adesso andremo incontro tendenza e le sue parole siano profetiche, perché in Italia quando c'è un'eccellenza in qualche cosa subito si toglie di mezzo, cioè abbiamo avuto sempre queste situazioni. No, guarda, mi credo, qua capita. Nessuno lo permetterà, perché veramente sono convinto, un affronto all'intelligenza dei siciliani, intanto, che hanno nella nostra struttura un riferimento che ora davvero va oltre il punto nascita. Per carità, la struttura è un ospedale con 256 posti letti, è una struttura complessa proprio perché muove una saturazione di posti letto, come abbiamo detto, è di numeri importanti, e quindi una struttura complessa non possiamo immaginarci che sia tutto perfetto. Certo, quindi qualche mi scuso e me ne scuso per tutti quelli che sono i disguidi che molto spesso possono incontrare, anzi spero non spesso, incontrano quelli che io chiamo, scusatemi, i nostri ospiti, perché i pazienti è un'altra espressione. Veramente per noi ritengo che chi passa dal Raffaele Cefalù è un ospite che poi ha dei problemi che speriamo di soddisfare. Dottor Cirillo, siamo arrivati addirittura d'arrivo, mancano pochissimi minuti alla conclusione di questa bella puntata che, insomma, grazie a lei l'ha resa anche pimpante, vivace, dando delle risposte straordinarie, devo dire, a chi ci sta ascoltando, rassicurando poi soprattutto le mamme per quanto attiene, o le future mamme per quanto attiene appunto il reparto di neonatalità dell'ospedale San Raffaele di Cefalù. Prima di congedarla, è un brutto termine, prima di salutarci, ecco, di salutare gli ospiti, cioè di salutare i nostri radioascoltatori e di salutarci noi, volevo fare una piccola puntatina su un altro paese che io ritengo straordinario. Allora, io qualche venerdì fa mi trovavo in un aereo andando verso Roma, giro le spalle e mi ritrovo il presidente San Raffaele, il dottor Cirillo, dietro a Tergo, dietro la mia poltrona. Stavamo andando a Roma, poi lui da lì avrebbe preso un altro volo per andare dove, dottor Cirillo? In Qatar? Sì, devo dire, andavo in visita privata in Qatar, a Doha, dove devo dire mi reco abbastanza frequentemente perché ho degli amici e degli operatori anche di imprese italiane che ho portato in Qatar, perché il Qatar, a differenza del povero Burundi, mentre il Burundi è tra i primi 10 paesi più poveri al mondo, il Qatar è il primo paese per ricchezza, perché ha un PIL di 16 punti, perché Doha è una città straordinaria in evoluzione. Considerate che Doha è, io dico sempre, la Dubai di 30 anni fa, quindi con una forte ricchezza che si proietta e che ha investito, provate a immaginare, ha investito per i prossimi 10 anni 300 miliardi di dollari per migliorare le strutture. Sì, effettivamente, però appunto lì l'emiro del Qatar è una persona sicuramente anche lì illuminata, nel senso che investe in maniera sana tutto quello che sono le loro ricchezze uscendo dal Qatar. Lì a Doha ho incontrato, perché lo sceicco amico mio mi aveva presentato al direttore di un ospedale che è il più famoso di Doha, Al Ahli Hospital, che è un ospedale voluto dall'Emiro, voluto dall'Emiro, dove obiettivamente vanno persone sicuramente facoltose, e un ospedale importante che ci ha chiesto una sorta di collaborazione. Io ho dato la disponibilità e rientrando ne ho parlato anche con i nostri primari, con qualche medico. Di fatto abbiamo offerto la possibilità che alcuni medici nostri si reghino lì 20 giorni, un mese l'anno, svolgendo le loro attività e possibilmente quindi intercettando quei pazienti più complessi che hanno necessità di essere operati in strutture. E normalmente diciamo da quell'area, dagli Emirati Arabi, si spostano sempre o in Inghilterra o in Germania i pazienti. Quindi noi vorremmo intercettare una parte di quei pazienti, portarli a Cefalù, fargli vedere appunto che oltre alla struttura che è sicuramente eccellente, Cefalù e le Madonie sono assolutamente, sono d'accordo con lei, superiori all'Inghilterra o alla Germania, e quindi creare senza campanilismi però sicuramente poter creare quindi una strada e un indirizzo a quel tipo di paesi che sicuramente possono avere un riscontro anche qualitativo dal punto di vista chirurgico nella nostra struttura. Dottor Cirillo, è stata una piacevolissima chiacchierata, ma prima di congedarla, come dicevo prima di salutarci, una domanda me la consentirà, anzi due, molto stringatamente, perché il tempo è purtroppo scaduto. La prima domanda è questa: cosa si sente di dire a chi ci sta ascoltando, quindi che potrebbero essere futuri ospiti del Sala Fair, speriamo mai, perché comunque, ma le patologie ahimè ci sono, esistono, come tranquillità, cosa vogliamo dire ancora sul San Raffaele e cosa si sente di dire a chi ci sta ascoltando? Velocissimo, una riflessione, vi invito a fare una riflessione per capire i contenuti dei quali parliamo. Negli ultimi anni, veramente soltanto l'anno scorso diverse centinaia, ma negli ultimi anni appunto il valore si è via via sommato ed è a dei numeri importanti, pazienti di Torino, di Milano, di Genova, di Venezia, di Roma, di Napoli, hanno scelto di venire a farsi trattare, a fare operare e a farsi assistere nella nostra struttura. Questo obiettivamente nasce dal fatto che il contenuto e il risultato raggiunto negli anni è riconosciuto veramente a livello nazionale. È paradossale quindi che oggi un paziente che ha bisogno di essere trattato per patologie complesse debba ancora migrare al nord o comunque in qualsiasi altro posto, perché le risposte che la nostra struttura riesce a dare sono altamente qualificate. Io dico sempre l'outcome, però scusatemi la parola in inglese, cioè comunque il risultato finale del paziente, che è dell'ospite che transa e che viene trattato nella sua struttura, sicuramente è, se non diciamo superiore, però equiparabile a qualsiasi altra struttura di Milano, di Torino o anche di altri paesi europei. Quindi su questa riflessione che vi invito a fare, vi invito quindi ogni volta che sicuramente la difficoltà di chi incontra una diagnosi su un parente, un genitore, un amico, una diagnosi complessa che molto spesso allarma e disorienta chi che sia, sicuramente una valutazione della possibilità di essere gestiti e aiutati nella sua struttura prima di pensare di emigrare, perché non ha più senso, mi permette di dirlo. No, prego, anche in questo è stato molto chiaro, molto esplicito, sicuro delle sue idee, ma c'è qualcosa ancora che le manca per completare il quadro dal punto di vista professionale? Cosa tirerebbe ancora fuori dal cilindro, dottor Cirillo, per dare ancora maggiore lustro alla sua fondazione? No, intanto mi permetta di dire, questo mi lasci veramente un minuto, che il lustro non lo do io, ma lo danno veramente tutti quelli che ci lavorano. Il lustro lo danno quei professionisti che io ho trovato, quelli che si sono aggiunti, i giovani che combattono molto spesso non gratificati né economicamente né come fasce di lavoro nei quali sono stati collocati e per i quali veramente ritengo che dobbiamo avere un'attenzione maggiore e dobbiamo promuoverli in tempi veloci. La fase critica, la fase più difficile, ritengo di poter dire che l'abbiamo superata. Ci dobbiamo proiettare in una fase nuova, prima di tutto dando risposte a loro, perché vanno motivati, perché prima di tutto perché se lo sono meritato abbondantemente, perché poi possiamo proiettarci su qualsiasi altra cosa solo se loro saranno fortemente ed emotivamente motivati. Quello che manca alla struttura dal punto di vista sanitario, glielo dico subito, sicuramente è la chirurgia toracica. Non esiste un polo oncologico che non ha una chirurgia toracica. Noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione con l'assessorato per inserire anche i posti di chirurgia toracica. Apriremo da maggio due ambulatori che sono quello di oculistica e di dermatologia, che sono due ambulatori che mancano, attraverso dei professionisti molto qualificati. Speriamo di andare oltre consolidando però quello che abbiamo, mi creda, è moltissimo, ripeto, grazie agli operatori. Quindi dobbiamo rivalutare un attimino quella che è la disponibilità di questi operatori, motivarli, perché è giusto dargli quelle risposte che aspettano da troppo tempo e che purtroppo un pochettino per le difficoltà che abbiamo incontrato, un pochettino per le tempistiche che si sono verificate con il partner milanese e con l'evoluzione negoziale con la regione, con l'assessorato, ma anche ahimè con la ASP di Palermo, che ci ha visto in contrasto forte per il passato, per prestazioni rese mai riconosciute, per un conflitto controllore controllato, come puoi immaginare. Tutto questo sicuramente ha penalizzato gli umori. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo entrare, ripeto, in questa nuova nuova fase, lo dobbiamo fare con determinazione, con la determinazione del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, della Direzione Sanitaria, di tutti gli apicali, tutti i primari, che devono prima di tutto rispondere a chi sta sotto di loro e che ogni giorno si sacrifica e poi porta, è quello che veramente porta avanti la struttura. Lei è anche un medico, quindi ha fatto anche lei il giuramento di Ippocrate, ma al di fuori dei vari giuramenti che si fanno alla parte della bandiera di Ippocrate, cioè alla parte la deontologia professionale che bisogna porre in essere nel quotidiano, soprattutto per quando si ha a che fare con l'essere umano, ma anche verso gli animali, per il rispetto al massimo. Stefano Cirillo, scevro dall'essere medico, scevro dall'essere presidente del San Raffaele Giglio, quali sono i punti salienti, cardini, imprescindibili in cui lei fa riferimento nel suo quotidiano, dottor Cirillo, in famiglia, con i suoi figli, come uomo, ecco? Ma come uomo, devo dire, sono molto riservato, non mi piace uscire con un'immagine privata, questo glielo confesso, sono da questo punto di vista forse anche un orso, sì, questo glielo confesso, però quello che devo dire propongo sempre alle mie figlie è di muoversi sempre attenzionando chiunque incontrano che possa avere bisogno, ma non è retorica e non è per un fatto altruistico, guardi, questo voglio essere chiaro, non è che io vado in Burundi o aiuto il prossimo perché per un fatto altruistico, lo faccio assolutamente per un fatto egoistico, ritengo che essere appagati dal riuscire a rispondere a qualcuno che ci chiede qualcosa ti dà una soddisfazione, un'emozione che è un'immensa gioia. Sì, e non lo faccio, ripeto, devo confessarglielo perché molto, visto che lei vuole entrare nel privato, glielo confesso, non ritengo di metterci niente di altruistico, lo faccio per un fatto estremamente egoistico. Rispetto alla sua riservatezza, ma mi consento una battuta, io ritengo che lei sia un uomo particolarmente sensibile verso l'essere umano e non perché sia medico o perché ha fatto il giuramento di Ippocrate, ma perché insito nel suo DNA. Dottor Cirillo, vuole rispondermi oppure ci salutiamo? No, le rispondo, se vuole le due note. Io sono convinto che ognuno di noi deve andare oltre il quotidiano, oltre quello che fa normalmente. Bisogna trasmettere alle nuove generazioni, e proprio perché sono un siciliano convinto, anzi, mi permette di dirlo, però non vorrei che fosse strumentalizzata questa. Io sono un autonomista convinto, sono convinto che la Sicilia, attraverso questo valore che deve rispolverare e che deve andare sulle nuove generazioni, può fare quel salto culturale che la fa ripartire. Siamo in un momento estremamente difficile, ma questo deriva dalla nostra mediocrità culturale, sicuramente le nostre generazioni, la mia e la sua, non riusciranno probabilmente a proiettarsi nel vedere questo cambiamento generazionale. I nuovi, i giovani che io incontro ogni giorno mi danno assolutamente la certezza che la Sicilia volerà alta, che la Sicilia decollerà, che il livello culturale sarà diverso da quello nel quale noi, mi permette di dire, purtroppo siamo stati costretti a vivere. Dottor Cirillo, è stato veramente piacevole ascoltarla per quello che ha detto, i contenuti, ma soprattutto perché l'ha detto col cuore e perché quello che pensa in realtà, per chi lo conosce come lo conosco io. Grazie, so che Filippo, si impegna, grazie, no, ma si figuri, è la realtà delle cose. Ci auguriamo che chi ci sta ascoltando abbia preso visione, che abbiamo un presidente e un direttore generale e tutte le maestranze, medici e paramedici e non solo, ma anche i tecnici che si occupano del San Raffaele in generale, perché questa macchina funzioni bene fino alla fine. Sono delle persone straordinarie che nel quotidiano pongono in essere non la deontologia professionale fino a se stessa, ma anche l'umanità che necessita per chi soffre, per chi vive, come lei diceva, come ospite nella casa di cura che è il San Raffaele Giglio. Grazie ancora, dottor Cirillo. Grazie a lei e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie. Sì, un attimo che parliamo ancora di due sponsor, abbiamo terminato, vi parlo del ristorante Sapore di Mare di Bellavilla Santo, in vendita frutti di mare e crostacei, servizio catering, telefono 091 811 1447, lo trovate dove? Via Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese, andateci perché veramente lì dal produttore al consumatore il pesce è veramente fresco, straordinario, e vostra moglie non deve cervellarsi per prepararvi la pietanza a pranzo o a cena, perché naturalmente trovate anche delle cose già precotte. Il gruppo Zaffiro è straordinario perché ha un brand and break fast di tutto rispetto, quindi arrivate a Santo Stefano di Chiamastra, vi fermate a questo brand and break fast, lo trovate a Porta Palermo, dopodiché l'indomani vi alzate prestino, vi fate una scampagnata in campagna e andate a pranzare poi nella degustazione dei Nebrodi, che è un'azienda agroturistica sempre del gruppo Zaffiro, ve lo ricordo, degustazione dei Nebrodi, che è una cooperativa che gestisce questa azienda agroturistica. Dulcis in fundo, se volete regalare un gioiello a vostra moglie, alla vostra fidanzata, a vostra madre, per perché no, fatelo con tanta gioia, perché è sempre un regalo ben gradito. Gioielleria Zaffiro, i negozi che naturalmente hanno delle firme straordinarie, come per esempio la Bosette, oppure le bomboniere esclusiviste della Pignatelli, o i gioielli della Luna, oppure Boss Braille e Rebecca per quanto attiene gli orologi, Re Carlo, Chimento e Miluna, insomma delle firme che, come vi dicevo prima, straordinarie. Gli orologi poi con Tissot, oppure Barberi ed Hamilton, le vetrine outlet, cioè quelle che vedete proprio di fronte a voi quando state per accedere all'interno del locale, sono pensate al 50%, e se spendete oltre i 30 euro c'è un simpaticissimo regalo. Poi l'azienda Zaffiro non è soltanto gioielleria, bread and breakfast e azienda culturistica, ma fa delle ceramiche artigianali straordinarie, quindi andate in contrata a Torrazza sulla SS 113 e vi fate fare i vasellami su vostra richiesta. Vi assicuro che sono dei capolavori artistici. Allora, la cooperativa agricola è Vegna Nebrodi, e trovate dei piatti tipici naturalmente per quanto attiene l'enogastronomia del tutto siciliana e locale. Io mi fermerei qui, vi ringrazio per essere stati in ascolto di questa ennesima puntata di Carta e Penna. Ringrazio le persone che mi seguono tutti i giovedì, ma anche chi mi sta seguendo da oggi. E cos'altro dirvi? Vi rimando a domenica per la differita alle 9:30. Se volete, potete anche andare su podcast e vedete le puntate precedenti di questa trasmissione, che vi ricordo si chiama Carta e Penna. A condurre la modesta parte Filippo Glorioso, alla regia come sempre, alla parte tecnica c'è il mio Raul Bova. Ringraziamo ancora l'ospite che abbiamo avuto in studio, molto esaustivo devo dire, straordinario per molti aspetti, ed è il dottor Cirillo, che è il presidente della Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù. Cos'altro dirvi? Buon weekend, l'insegna forse della pioggia, ma pazienza, state a casa, magari vi gustate la famiglia, quello che durante la settimana non riesce a fare quasi nessuno. Grazie ancora, a risentirci alla prossima, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione.